dato tutto anche quello che non ho. Prendete tutto anche quello che non do. Sapete tutto anche quello che non so. Fate di tutto anche quello che non va. Vi ho dato tutto anche quello che non ho. Sapete tutto anche quello che non so, fate di tutto anche quello che non...